Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascara, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Un'idea, ma perché a scuola non sostituiamo l'ora di alternativa alla religione con un'ora del meglio della zanzara? Secondo me è molto più educativo. Io prego, dico signore, ti prego, converti Cruciani affinché creda nelle tue parole, in quello che crede, l'amore. Credo che il ministero sarà d'accordo, Parenzo, nel sostituire l'ora di religione con un'ora di zanzara. Che dici? Guarda, non è detto, magari il 2016 porterà sotto l'albero anche questa grande novità innovativa. Alla Leopolda per ora non ne hanno parlato. Per ora è finita. Per ora. Nel fine settimana intanto buon Natale a tutti e salam aleikum. Ma chi perché è una, guarda, io se c'è una cosa che odio, questa se c'è... è una trasmissione multietnica e multiraziale, qui e non nel lo 2016 dici. Per la prima puntata in onda, sì, dal 4 credo gennaio, sì, ci sarà, forse, una grande novità, ci sarà in ogni puntata un mediatore culturale che, sì, per 5 minuti già detta sta cazzata, dai, no, su. Ma questa volta ti giuro, guarda, l'hai già detta io sta cazzata, ti dai, assicuro che quest'anno l'hai già detta sta puttanata, io mi dimetto se l'anno prossimo non c'è un mediatore culturale che almeno 5 minuti illustra quello che fa, io mi dimetto. Allora, nel weekend c'è stata la condanna definitiva, è andato anche in galera del signor Stasi. Diciamo solo una cosa, perché non c'è nulla da dire su questa vicenda che forse tutti avete letto, tutti avete visto, sì, in televisione, tutti avete seguito. Per condannare questo ragazzo ci sono voluti, non dico questo ragazzo in senso, vedete, né colpevolista né innocentista, no, certo, ci sono voluti 5 fottutissimi processi, per lui fottutissimi naturalmente, 5 processi, e dico 5, quando addirittura in uno di questi processi in appello era stato assolto. Ora, una cosa del genere uno la può pensare in un modo, in un altro, la famiglia, sì, sì, di quella uccisa, per carità, cerchiamo la giustizia, sì, cerchiamo la verità e tutte queste cose. Amici miei, esiste solo in Italia, cioè 5 processi, 5, dai, su, cioè 5 tribunali diversi che poi in Cassazione non sono veri processi, diciamo, no? Nient'altro da dire su questa vicenda, proprio nient'altro. A me fa ridere una cosa, nella vicenda delle banche c'è il ministro Boschi che è sotto i riflettori, la mozione Boschi, di sfiducia, Boschi. Io conoscevo un Boschi che era vicepresidente della Banca Etruria. Era. Sì, era. Sì, il padre, che si chiama Pierluigi, come Bersani. Pierluigi. No, di che? Di chi? Della Boschi. Beh, il padre. No, chiedo, no. Signor Boschi, sì. Signor Boschi, la signora Boschi, anzi il ministro, sì, Boschi, sì. Dice, mio padre è una persona per bene. No, adesso, sicuro. Per carità. Come padre, sicuro. Sentiamo, innanzitutto sentiamo. Io conosco mio padre, so chi è, so che è una persona per bene, so come ha cresciuto me e i miei fratelli, e quindi è normale che se sento disagio. Non si sentiva una mazza. Comunque ha detto in tutte le salse, cioè in tutte le salse no, perché in realtà è molto attenta a quello che dice, sostiene che il padre è una persona per bene. Ora, questa cosa è abbastanza scontata, cioè chi se ne frega, anche i figli, che ne so, di un assassino dicono che il padre è una persona per bene, no? Adesso non voglio paragonare chiaramente il padre di Bosco a un assassino, no ma sì, è così, perché i figli nei confronti dei padri, anche se hanno commesso le peggiori nefandezze, tengono sempre a essere, cioè più o meno sono sempre indulgenti, no? Cioè più o meno, dai, per cui il fatto che il ministro ci dica mio padre è una persona per bene, non ha mai rubato, questo vuole dire in sostanza, no? Non ha mai fatto delle irregolarità, a parte che non è vero, perché quando era all'interno della banca insieme ad altri è stato sanzionato per alcune irregolarità, per cui in parte non è nemmeno vero quello che dice la Boschi, se proprio vogliamo considerare alcune cose avvenute all'interno della Banca Etruria. Però a noi il fatto che il ministro ci dica che il padre è una persona per bene non ce ne frega nulla, non ce ne frega niente. Come sapete ci sono anche delle mozioni, anzi una mozione di sfiducia presentata dai 5 Stelle. Un ministro della Repubblica italiana deve essere al di sopra di ogni sospetto. Il Movimento 5 Stelle reputa che il ministro Boschi non sia al di sopra di ogni sospetto, reputa che la banca riconducibile alla sua famiglia sia stata favorita da alcuni provvedimenti del governo Renzi, per cui noi la sfiduciamo e lei sarà costretta a venire in Parlamento a fornire spiegazioni alla nazione intera. Le spiegazioni però è una cosa corretta, al di là della mozione di sfiducia, se ne deve andare, non se ne deve andare, tanto le opposizioni normali che chiedono le dimissioni dei ministri, questo però è sempre avvenuto. Qualcosa deve spiegare. Deve spiegare il ruolo del padre, se ci sono stati favoritismi, se la nomina a ministro, anzi a vicepresidente della Banca Etruria 3 mesi dopo la nomina della Boschi a ministro, le due cose sono in collegamento, eccetera. Dopo eccetera, le ispezioni di Banca d'Italia che aveva segnalato che lui era nel CDA, comunque vabbè, quello che bisogna che spieghi. Perché è il ministro importante del governo, non è solo il ministro delle riforme. Poi è vero che le colpe dei padri non ricadono sui figli se ci sono delle colpe. Sì, è vero, però è inutile dirci cazzate, ragazzi. Se il padre ha fatto delle minchiate, è evidente che ci sono delle ripercussioni politiche sul ministro Boschi, non c'è dubbio, dai, su, questa è la realtà. No, vorrei solo ricordare che il signor Lupi l'hanno fatto dimettere per un orologio. Beh, lì è diverso, perché il padre ha chiesto delle raccomandazioni. Anche lì non c'era nessuna, anche nel caso di Lupi non c'è mai stata nessuna. Però in prima persona chiamava delle persone per fare incontrare il figlio per motivi di lavoro, per cui c'era un collegamento diretto nel caso Lupi, Voci dai truffati delle banche. Non mi importa che le dia la Boschi, che le dia Renzi, che noi se rivolgi i nostri soldi. Chi ci rimette il babbo della Boschi, non lo so chi era vicepresidente. Cosa rimette lui? Mi carebbe vedere cosa ha rimesso. Dice anche Renzi che si era presentato come il rottamatore, ma il rottamatore del che? Rottamatore del che? Quando lei va in banca si crea un rapporto di fiducia e lei firma, perché la persona che ha davanti è una persona in cui lei ha bisogno di avere fiducia, perché altrimenti non lo fa, è come quando va da un notaio. È un salvataggio che non ha tenuto conto di una flotta di risparmiatori e secondo me è proprio mirata non a salvar noi, ma a salvare qualcun altro molto sopra di noi. Il fatto che non si possa ricorrere, cioè che sono protetti gli ex amministratori delle banche, è una mezza vergogna, diciamo la verità, che gli amministratori delle banche siano protetti da una sorta di scudo che è dentro questo decreto del governo, è una cosa abbastanza vergognosa. Però adesso c'è la testimonianza di una signora che abbiamo raccolto, che si chiama Maria Grazia Pozzolini, è una di quelle più battagliere, ma anche con cervello, cioè con ragionamento, non c'è solo la rabbia. La cosa importante è soprattutto la delusione nei confronti di Renzi, perché è questo il nodo politico, cioè il fatto politico importante. È tutta gente che votava alla fine Renzi, questi truffati, cioè queste persone truffate, chiamiamoli così, queste persone che si sono visti evaporare da un momento all'altro i loro risparmi, no? Questa Maria Grazia Pozzolini, senti su Renzi le primarie, la delusione, e poi anche una cosa abbastanza forte. Allora, Renzi non è stato votato perché è andato per chiamata, però è stato votato da me alle primarie e io ho fatto un tifo da stadio perché per me rappresentava il nuovo, la faccia pulita, il ragazzo giovane, per me rappresenta la delusione più totale. Ha abbandonato le persone più semplici, più indifese. E poi questi qua, alcuni di questi qua che sono andati alla Leopolda ieri, si sono trovati di fronte a una specie di muro, sì, hanno fatto poi un colloquio, alcuni col ministro Padoan, e ovviamente sono molto delusi per questa roba qui, che sono stati trattati come dei reietti, tenuti fuori, a distanza, come se fossero dei black bloc qualunque. Stamani, ripensando all'esperienza della Leopolda di ieri, è stata talmente traumatica che avevo una gran voglia di piangere. E poi arrogante, l'arroganza del potere. Insomma, oggi, quando l'abbiamo sentita, Maria Grazia Pozzolini, così si chiama, ha avuto, dopo l'esperienza della Leopolda, un brutto pensiero, un brutto pensiero. Domani, dopo l'esperienza della Leopolda, mi sono sentita ulteriormente tradita, ferita, e io ho pensato a quella persona che si è suicidata. Ho detto che veramente, guardi, ma glielo dico con il cuore in mano, se non avessi altri valori in cui credere, non lo so cosa avrei fatto stamani. Perché oltre alla delusione dell'aver perso il denaro, c'è la delusione di non credere più nella politica, di non credere più in quella persona nella quale credevo. Cioè, mi sono sentita crollare il mondo addosso. Traffico, il traffico è il problema. La Zanzara. Zanzare, UAC bar, Zanzare, UAC bar. A proposito di UAC bar, David, la cosa che però mi ha colpito di più in questo lunghissimo, non so perché è stato lunghissimo questo weekend, poi ti racconterò alcune cose molto intime, anche alcune cose molto molto intime, però poi dopo vai, enormi porcherie. Allora, ti ripeto, la cosa che mi ha colpito di più è stata una cosa di una signora dei 5 stelle di Civitavecchia, se non sbaglio. Ah, una, come no. Tra ricordi questa roba, la signora, no, Rosanna Lau, amico mio, Rosanna Lau. Allora, devi sapere che un fatto di cronaca, ti dico, ti spiego un fatto di cronaca. Sì, pare ex 5 Stelle. Comunque, un fatto di cronaca, una signora che si chiama Alessia Della Pia, non mi ricordo, a Parma forse, è stata massacrata, praticamente, presa, massacrata dal suo convivente, uno con cui aveva una relazione, un tunisino di 27 anni, uno che ha dei precedenti, pure pare senza documenti, clandestino. No, ma sono le solite roba. Questa qua ha scritto: una donna italiana quarantenne malata di cazzite cronica, no. Cazzite cronica, intreccia una relazione con un tunisino di 25. Lui l'ammazza come un cane. Non voglio vedere il suo nome nella lista dei martiri. Dire che se l'è cercata è il minimo. Se fosse sopravvissuta l'avrei insultata. Nel rispetto della morte provo pena per sua figlia. Pure nel rispetto della morte, va. Io la sentirei questa signora Lau. Ma figurati se risponde, c'è la coda di paglia. Signora Lau? Sì. Buonasera, qui Radio 24, come sta? Bene. Senta, ma vogliamo spiegare un po' di cose? Innanzitutto, lei è ancora nel Movimento 5 Stelle? Perché ho sentito Di Battista dire che lei non è più nel Movimento 5 Stelle. No, non mi sono dimessa io. Cioè, si è dimessa lei dal Movimento? Ma quando, cara? Subito. Ah, subito dopo questa vicenda? No, quando ho visto che ho pubblicato quel post, che immediatamente dopo mi sono dimessa. E come? Lei pubblica il post e poi si dimette? Certo, perché ho capito che avevo scritto una cosa non consona e mi sono dimessa. Scusi, ma dovrebbero fare magari tanti politici quando fanno qualche cosa, no? Beh, sì, ma in questo caso è un po' diverso, insomma, no, non è la stessa cosa. È meglio scrivere un post su Facebook che magari portare le persone a suicidarsi come anche Trudia, magari quello è più semplice, è meglio che non si dimettono quelli. Lei ha scritto: una donna italiana quarantenne malata di cazzite cronica intreccia una relazione con un tunisino di 26 anni. Lui l'ammazza come un cane, non voglio vedere il suo nome nella lista dei martiri. Dire che se l'è cercata è il minimo. Se fosse sopravvissuta l'avrei insultata. Nel rispetto della morte provo pena per sua figlia. Esatto. esattamente, è scritto in maniera sbagliata, perché non era quello che volevo scrivere. E che voleva, che voleva dire lei? Consecutivi. E che voleva dire? No, è curioso, io sono qui ad ascoltarla, che voleva dire? Grazie, la ringrazio che qualcuno almeno mi vuole ascoltare. Allora, a prescindere dal posto che era esattamente... Ma che c'ha, un cane dietro? Sì, c'è un cagnolino. Che c'ha, un cane lupo, no? No, è un cagnolino piccolo. Può far star zitto quel cane, però, che non si sente niente? Aspetta un attimo, E basta con quel cane, su, è la radio questa, mica è Casaleggio lì, 5 Stelle, su, il mitato. Lo che se vi dà fastidio, io non è che posso soffrire. No, ho capito, però questa è la radio, signora mia, non è il meetup, no. 5 Stelle, la rete, lo dico con educazione. Chiuda quel cane in una stanza, non lo so, un minuto, cara, se no adesso non si capisce un cazzo. L'ha detto con rispetto, con il linguaggio che attiene a questa radio. Allora, signora Laudu, che noi siamo qui ad ascoltarla. Sì. Che voleva dire in quel posto? E volevo dire che il mio era più un grido di rabbia, un modo di scuotere le coscienze. Sì. Perché l'ho detto in una maniera molto cruda. Molto cruda, molto. Molto cruda, allo stesso modo come l'avrei detto a un'amica o una sorella o chiunque. Perché io che vuole, no, ero la delegata al mercato, quindi sono abituata... Cioè lei è una del popolo, a parlare... Sono abituata a parlare come mangio. Come mangio. Non parlo, ecco, sì. Qui non si sta parlando di... il signore in questione era da settembre 2015 che era stato espulso dall'Italia, che non doveva stare in territorio italiano. E vabbè. Magari forse era meglio chiedersi come mai quel dirigente non ha fatto applicare... cioè lei dice che quella signora... Quel signore lì erano da 15 anni, da quando aveva 15 anni di età, che entrava e usciva dalle galere, era un tossicodipendente. Cioè lei dice ha fatto male la signora a mettersi con questo? Ma se io mi prendo il coccodrillo e me lo metto a casa, poi non mi posso mettere a piangere se mi amputa una mano, mi perdoni, No, ma infatti... No, la metafora si può anche stare, però... A 40 anni penso che sia ben consapevole se si mette a rischio. Con questo non ho zitto nel post o quantomeno ho giustificato un assassinio. Però la stupidaggine nel rispetto della morte ci mancherebbe. Lei dice che l'avrebbe insultata, la signora morta. Da viva, se fosse sopravvissuta. Beh, certo, sopravvissuta l'avrebbe insultata. C'entra. Certo. Lei dice che se l'è cercata, su, diciamo la verità. La signora morta se l'è cercata, dai. Questa è la storia. Questa è la storia. Oh no. L'ho scritto in una maniera sbagliata, forse dovevo usare altri termini. Però conferma che se l'è cercata. Se l'è cercata come quello che va a 300 all'ora per strada e va addosso a un albero. Scusi, ma lei quanti anni ha, signora? Io ho 60 anni. 60 anni, si metterebbe mai con uno di 30? No. Perché? Perché no. Guardi che può essere interessante. Lo so che può essere interessante, ma non mi ci metto con uno di 30. Non penso che un trentenne abbia le mie stesse esigenze, il mio stesso modo di vivere. Io ho una certa maturità. Possono dare soddisfazioni, però, non c'è dubbio. Ma se per quello, guardi che ci stanno molto sessantenni che vanno a fare le vacanze sessuali in Egitto, ci vanno e poi tornano, non è che se lo sposano. Scusi, ma quando lei scrive malata di cazzite cronica, che vuol dire? Dai, su, anche questo. È di una volgarità inaudita, dai. Come ve lo devo dire che il posto l'ho scritto in un momento sta dicendo che una morta era affamata di qualcosa, signore. Come ve lo devo dire che ho scritto il posto? Cosa devo fare? Fustigarmi a Piazza San Pietro con un gatto a 9 code? Ma questa è morta! Questa qua è morta, massacrata da questo tunisino! Questo è il punto! Allora, secondo te la morte riunisce tutti? No, ma questa qua è morta, allora uno... domani quando muore Totorino non è un mafioso, diventa una mammola. Perché avete scatenato un putiferio in tutta Italia quando invece c'è da prendere quel dirigente che ha permesso a questo di stare qui e buttarlo in galera e arrestarlo per complicità in omicidio volontario di questa donna? Ma quello è un altro... Adesso sono io che ho armato un tunisino, per caso? Ti sei vergognato un po', ti vergogni un po', vergognati, dai. Non c'è niente nella vita che tu mi debba vergognare. Vergognati un po', dai, per questa cosa che hai scritto. Dai. Va bene. Ciao. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. La delegata al mercato dei 5 Stelle. Se sposi un tunisino, allora te la cerchi. In realtà non ha detto proprio così, comunque. stai con un tunisino pregiudicato, tossicodipendente, e poi quello ti ammazza, te la sei cercata. Vabbè, è incredibile. Malata di cazzite cronica. Poi bisogna trovare certe espressioni. Malata di cazzite cronica. Che voleva dire, secondo te, malata di cazzite cronica? Non c'è in questo in cerca caso, di uccelli, dai. In cerca di uccelli freschi, freschi, voglia, giovani. Avevi voglia di quella è la, ma è la, ma è la spiegazione. Cosa, ma la spiegazione già, bisogna ma la darla. Gente l'ha capito, è ma già bisogna chiaro, dare la spiegazione autentica. Ma non c'è bisogno, non mi pare che sia una frase criptica, diciamo, criptica. Cruciani, si deve vergognare, siete vergognosi, ma voi state delirando. In questi giorni di festa, regalatevi tutta l'informazione, l'intrattenimento e la passione di Radio 24. Buon ascolto e buon Natale. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. La Zanzara. Tutto il fine settimana questa è una canzone sostanzialmente dedicata a noi di un gruppo che si chiama Radio Voodoo. Radio Voodoo è un gruppo, un piccolo gruppo battagliero di rock italiano. Si farà. Beh, io non sono vegano, mi piace il manzo italiano, stupenda, stupenda. Ragazzi, gli amici di Studio Aperto, animalisti, hanno dato una notizia: l'Italia è invasa da cinghiali, 1 milione. A quanto pare lo Stato darà il permesso di abbatterne 150.000 capi. Sto preparando il macete. Ecco, adesso non esageriamo col macete. Sempre qualcuno che la fa oltre. Qualcuno che va oltre. Sempre, qualcuno sempre. Più realista del re. Però, ragazzi, se questi qua distruggono i campi, se distruggono l'agricoltura, in qualche modo bisognerà fare. Cioè, questi cinghiali vanno, nelle regole, per carità, presi e ammazzati. Presi e ammazzati. Tra l'altro, la carne di cinghiale è ottima, stupenda, meravigliosa. Non lo so, non la mangio perché non si può mangiare. Mamma, ma che cazzo potete mangiare voi? Immaginavolo. Ma che minchia potete mangiare voi? Ma perché? Al maiale, come tu sai. Io non ce la faccio. Ma guarda, sai, tu sai che faccio. Il cinghiale è un maiale perché più grande, no? Io una cosa non mi sono mai spiegato. Cos'è che no? Ti disturba? No, non mi disturba niente, perché non me ne frega niente, ognuno è libero di fare quello che vuole, per carità. Non è che disturba la tua intimità. Ma perché le religioni proibiscono alcuni cibi? Vuoi è quello che non capisco. No, ma dal punto di vista proprio filosofico, perché ma le tu religioni puoi, per me puoi mangiare. No, ma lo so, ma perché mi spieghi perché le religioni impediscono di mangiare alcune pietanze? Sono un perché? Credo, sono perché? Una cosa che no, cosa perché pazzesca. Li reputano animali puri, animali impuri. Ma è una cosa impuri, medievale, un medievale, siete nel Medioevo, Le religioni arrivano prima del Medioevo, prima. Vabbè, ma il medievale è un modo di dire. Prima, è un senza modo controllo di dire. Sei da prima. Allora, io non sono vegano, mi piace il manzo italiano, stupenda, c'ho la testa qua, mi piace. Meravigliosa, Radio Voodoo, Radio Voodoo, stupendi. Ovviamente li ospiteremo qui quando uscirà questo disco. Li ospiteremo qui, amici miei. Allora, c'è un piccolo paese a Trevenzuolo. Mi è ripresa la botta da matto sugli animalisti, non so perché. Avevo abbandonato negli ultimi giorni, lo so, però ci sono due o tre notizie. Trevenzuolo. C'è un presepe vivente, hanno portato dei conigli. Poverini, dei piccoli conigli, sono bellissimi, conigli meravigliosi, eccetera, eccetera. Hanno messo in questo presepe dei coniglietti di proprietà di un allevamento della zona. Del presepe vivente. Del presepe vivente. Ovviamente, dopo la rappresentazione, dopo il presepe vivente, questi qua tornano no, lì e vengono messi in pentola in sostanza. Ma chi l'ha detto questo? Beh, sì, è normale, l'hanno detto. Cioè, i magi si sono mangiati i conigli. No, vengono riportati all'allevamento e sostanzialmente cucinati subito, seduta stante, subito. La rivolta degli animalisti. Scusate, ma allora dovremmo, cioè, va bene che uno non è d'accordo proprio, no, col fatto di cucinare i conigli, ma quei tre conigli sono uguali agli altri, perché salvare quelli e non gli altri allora? Cioè, perché i conigli privilegiati e invece gli altri possono finire in pentola? Dai. Conigli di serie A e conigli di serie B, non c'è dubbio. No, questo è vero, grande battaglia. Davide da Roma, vai, 800 24 00 24, vai, Davide. Sì, buonasera. Dimmi, dimmi. Sì, ti chiamavo per il modo in cui hai telefonato alla ex deputata 5 Stelle. Nel modo... Sì, che non è una deputata, era una specie di delegata. Insomma, comunque, una del Movimento 5 Stelle. Qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è essenzialmente il modo in cui hai approcciato alla telefonata. Il modo in cui hai approcciato alla telefonata. Vale a dire, Dio mio. Hai fatto il moralista. Si sono ribellati quelli del Movimento. Ho avuto un sacco di messaggi. Hai attaccato quelli del Movimento. Vabbè, allora non ho capito. Il moralista, ma scusa un attimo, amico mio, 5 Stelle. Io no, A me non me ne frega niente, Davide, della relazione che c'era tra una signora che si chiama Alessia Della Pia e un tunisino di 27 anni. E perché non mi interessa non perché non me ne frega niente, perché questa povera signora è stata massacrata da questo tunisino, e questo tunisino deve finire in galera a vita. Siamo tutti d'accordo. E fin lì nessuno si sarebbe ricordato di questa vicenda, nessuno. Solo che c'è una signora che ha scritto che, nell'ordine, in 5 righe, che questa è malata di cazzite cronica. Che cosa ne sa dei motivi per cui una signora di 40 anni si mette con un tunisino di 27? Magari non è solamente per il cazzo, perché stiamo parlando di questo, poi no, cioè non è che stiamo parlando di altro. Io penso di sì. Ah, tu pensi di sì. Che lo pensi anche tu. Tu pensi di sì, che è solo per io questo. Penso proprio di sì. Ma che ne sai tu? Ma che ne sai tu? Cosa vi interessa discutere di questa porcheria, stupidaggine? No, ma io non mi interessa. Ho anche da dire una cosa a lei, Lorenzo, tranquillamente. Se l'è cercata il minimo. Se l'è cercata il minimo, Cruciani, dai. Ma come fa a essere così stupido? Ma tu lo sai che c'è un sacco di gente che pensa che ha ragione questa qua, questa Rosanna Lau? Cioè, fatti venire un dubbio, magari, no? Forse no, ma io non mi faccio mi faccio venire sempre dei dubbi. Ma perché è così stupido? Questo io non capisco. Perché uno è così stupido? Stai dando dello stupido a Davide? Ma è poco, ma come fate a telefonare? Mi dispiace, per Lorenzo, dire perché io non avevo telefonato per darti dello stupido. Ma se hai detto, una cosa che è talmente stupida e idiota, anche tu nella telefonata che ti dovresti vergognare. Hai avuto un atteggiamento così poco educato, bello mio. Che se telefoni alla a una persona alle ore 18:30, quando era 18:35, senza preavviso, e senti il cane che abbaia, ma è il minimo che ti devi aspettare, perché può essere anche che io sto facendo ciclette, se ho l'affanno, a noi ci dava fastidio. Ho detto educatamente di chiudere quel cane. No, non l'hai detto educatamente, perché la radio ce l'ho anch'io, quindi non. Vabbè, quello Davide, che voglio dire io è che se questa sera avete cominciato con delle fotocopie, non siete voi, ridateci Parenzo e Cruciani, perché. In che senso, scusa? Non vi si riconosce. In che senso? Siete due surrogati dei parenti. In che senso? Spiegami, amico mio. Nel senso, ti ripeto, che siccome ti metti a fare il moralista su una cosa del genere, il moralista, hai detto alla signora che si doveva addirittura vergognare. Vergognare, di che cosa? Scusa, ma se uno scrive di un affare che non la riguarda, perché non è che è una cosa che riguarda una storia di cronaca, cioè, una moralissima, drammatica storia di cronaca. Ma scusa, amico mio, un tunisino di 27 anni massacra e uccide la sua convivente Rosanna. No, Rosanna Lau, no, l'altra Alessia Della Pia, benissimo, ok. Tunisino che probabilmente aveva dei precedenti, forse tossicodipendente, non lo so, eccetera, eccetera. No, come allora, non lo sai? C'è un articolo, che vuol dire? Sì, non lo so. Il commento che è stupido, come si fa a non capire? Stupido, stupido a dir poco. Una signora che, parentesi, esponente del Movimento 5 Stelle, cosa fa? Scrive su Facebook, una signora esponente politica, diciamo, anche se minore, dice che questa qua è malata di cazzite. Cioè, sostanzialmente sta insieme a questo. Quindi tu discuti, metti semplicemente in discussione il fatto che l'abbia scritto una politica, e magari anche, come ti ha detto, un attimo preso altrimenti non l'avremmo altrimenti non l'avremmo chiamata. Se l'avessi scritto io, mi avresti telefonato, Cruciani. Davide, non lo so, adesso escono talmente tante stupidaggini su internet che probabilmente ma qual è il problema? Ha ragione lei dicendo che se l'è cercata? Se tu ti metti io la penso esattamente come la signora. Bene, ciao. Ti ripeto, Davide. L'avrei dovuto scrivere io. No, ho capito, ma non capisco perché ci devi dare delle palle mosce. Stiamo parlando di cose di attualità. Roberto da Padova, dai. Sì, buonasera. Dimmi. Io volevo fare un po' un parallelo provocatorio, intanto non dico che ha ragione la signora Lavo, ovviamente, però tra le dichiarazioni tue di dire che un ladro quando va a rubare e viene ammazzato se lo merita, tanto quanto allora questa ragazza potrebbe essere anche capibile che si meriti una fine del genere. Non riesco a capire il collegamento. No, io non sto dicendo che ha ragione la Laura. Ma non ho capito il collegamento, scusa. Però, cioè, il collegamento, ma perché dovrebbe meritare di morire? Non ho capito. Una, perché stava con un marocchino di... Sto parlando delle tue dichiarazioni. Ma io non c'è nessuna dichiarazione. Dichiarazioni. No, tu dicevi che un ladro che viene a rubare in casa mia, se viene ammazzato, se lo merita. Vabbè, ma infatti è ladro però in questo caso. Ho capito, ma una ragazza che frequenta... A parte che non ho mai detto che si merita di morire, ho detto che è legittimo sparargli, non ho detto che uno merita di morire. Beh, cioè, no, se viene a rubare non meriti di morire. Se poi il proprietario di una cosa, di un negozio, di una casa reagisce e tu muori, può capitare e non c'è nulla di strano. Dire allora che, certo, con toni diversi, può capitare che se tu frequenti un pregiudicato tossicodipendente meriti di morire. Vabbè, ragazzi, non meriti di morire, non ci può succedere, quindi non ma può umano. Succedere, ma che vuol dire? Ma questa ha detto se l'è cercata, io l'avrei insultata se fosse stata viva, cioè non provo pena. Questa ha fatto delle dichiarazioni è quello di cui stiamo parlando. Maurizio dalla provincia di Savona, dai Maurizio. Cioè, allora io avrei tante cose da dire. La prima è per quanto riguarda l'Islam, no, non me ne frega niente l'Islam, ma di che vuoi parlare? L'Islam, che c'entra l'Islam? Poi volevo dire, per quanto riguarda l'autodifesa in casa, anziché pistole che ci può scappare il morto, se può essere giusto o non è giusto, ma perché non usiamo il taser? Il taser, che non so se sapete cos'è, è un ma perché io devo parlare può... del taser alle 19:29? Perché? Che, dimmi qual è il motivo? Io voglio parlare così, voglio parlare di questo. Del taser. Esatto, cioè perché se tu ti vuoi difendere, non per forza devi sparare rischiando di uccidere una persona, anche se giustamente, però il taser immobilizza la persona, taser, il ladro, quello che è, e quindi lo neutralizzi comunque. Ciao, pubblicità. Pubblicità! State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Quanto mi stanno sul cazzo i vegani, oh! Io mangio un filetto, vedo le stelle, baby, e mi godo così le cose più belle con te. Allora, vedete, se io fossi veramente un figlio di puttana, e in parte lo sono pure, caro Parenzo, potrei citare, a proposito della vicenda vegani, consumo delle risorse della terra, eccetera eccetera, che ci sfrangiano i coglioni in maniera fenomenale dicendo che sostanzialmente no, per fare, com'è che dicono, tu non lo sai queste cose perché non le studi, per fare un chilo di carne, non lo studio. No, ma sono importanti invece, per fare un chilo di carne, c'è pure un bellissimo libro di Rifkin, per fare un chilo di carne si consumano non so quanti litri d'acqua e dunque le risorse del pianeta e tutte queste cose qua. Se fossi un figlio di puttana, e lo so, no? Anzi, esatto. Ho cambiato idea e lo sono. Esatto, non sei. No, siccome sono un figlio di puttana, la frase. E lo so, sì, hai ragione. Siccome sono figlio di puttana, e lo sono, e lo sono. Allora, cito uno studio fatto, riportato dall'ANSA, cioè dall'agenzia ANSA. Salutiamo qui, riveriamo il direttore dell'ANSA. Magistralmente diretta, la signor Don Giù. Esatto. Dietro front sulla dieta vegetariana, nemica dell'ambiente. Studio americano, lattuga tre volte più dannosa della pancetta. Come la mettiamo, amici miei? La mettiamo? Mangiare lattuga è tre volte più dannoso per l'ambiente che mangiare pancetta. Oh, ragazzi, rendiamoci, io non credo nemmeno a questo, Cioè, non credo nemmeno a questo, però. Non mangiare lattuga. Nulla di queste ricerche, la maggior parte delle cose, delle volte non ci credo. Mangiare lattuga è tre volte più dannoso per l'ambiente che mangiare pancetta. Stesso discorso per melanzane, cetrioli e sedano. Meno ecosostenibili della carne di pollo e di maiale, pensa. A parità di calorie, infatti, la loro produzione consuma più acqua ed energia, producendo più gas serra. È quanto dimostrano i ricercatori della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, in Pennsylvania, in uno studio destinato a riaccendere le polemiche tra vegetariani e carnivori. Ragazzi, io non credo nemmeno a questo studio. Però basta con questa storia. Basta, basta, basta. Allora, collegamento speciale oggi che è lunedì, ma tra un trasbordo aereo e l'altro, caro Parenzo. Sì, da dove in questo arriva? Caso da Lione, città a me molto cara perché sono stato un sacco di anni ruggenti. Abbiamo fermato la discesa, l'avanzata al potere, anzi, della signora. Ma di chi? Marin Marion. Allora, ma siamo messi tutti insieme. Siamo messi tutti insieme a fare il blocco nazionale, allora, come i tempi del fascismo. Bloccata le frontiere, bloccata. E ora rispedita a casa sua. Torni a casa sua. No, la legge elettorale bloccata. In Francia è particolare. Ma quale legge elettorale? Bloccata lì, doveva governare mezza Francia, è rimasta lì. Ma la Le Pen non c'è più. Ma che sei in brodo di Giugio, le stai vedendo? Giornalismo indipendente e asettico il mio. Indipendente e asettico. Indipendente e asettico. Come la BBC insegna, il classico giornalismo in stile Roberto Napoletano, asettico, indipendente, sobrio, misurato. Le Pen, cucù. È impazzito. Salvini è impazzito. Ha dei problemi, poverino. Giornalismo sobrio. Ho capito, sobrio. Ma fai qualcosa. Ma fatti sobrio. Una trombata, cioè stai più tranquillo. È meglio per te. Non ho capito, Parenzo, per te è stato meglio di una trombata praticamente la sconfitta dalle Pen. Diciamo la verità. No, adesso questi paragoni, sai che io li rifuggo. Invece, Salvini quasi a lutto, no? Anche se qualcuno dice che in realtà poi non è così. No, ho messaggiato sia con Marin che Marion in che lingua? Loro i complimenti, che la vittoria è solo rimandata perché lì la partita della vita se la giocano fra un anno e mezzo alle presidenziali del 2017. Ah, tu dici la legge elettorale adesso? Voglio vedere se le ammucchiate destra, sinistra, ambientalisti, sopra, sotto, tutti contro la Le Pen avrà un senso, anche perché i cittadini adesso vorranno delle risposte. Se fai le ammucchiate le risposte non le dai. Però scusami, abbiamo semplicemente rallentato quello che succederà. Però scusa, la cosa curiosa sono i messaggini, Parenzo, di questa cosa che ha detto Salvini adesso. Dice vabbè, lui è avanzato nel Fronte Nazionale, è solo rimandato, vabbè, questo qua è normale che lo dica. Però i messaggini, cioè le comunicazioni con la famiglia Le Pen, non col patriarca che come sappiamo è stato estromesso, ma con Marine e con Marion, sono attraverso SMS, cioè tu ti messaggi dunque anche con la signora Marion. Sì, ma non voglio rompere le scatole col telefono, quindi l'SMS è bello perché uno arriva se Marion, quando vuole risponde, se non vuole non risponde. Sono cortesi e rispondono, e quindi. Ma in che lingua? In che lingua? Francese. In italiano, rispondono in italiano. Ah, cioè tu scrivi in italiano e loro in francese? No, in italiano rispondono. Ah, loro rispondono in italiano? Sì, certo. E che fanno? Certo. Parlano italiano così bene? Vabbè, comunque ci vediamo mercoledì per preparare un evento che faremo a Milano entro fine gennaio per presentare a tutti gli italiani. Cioè Marine Le Pen a Milano? Marine Le Pen viene a Milano a fare una cosa con te a gennaio? Sì. Cioè che vuol dire? Un comizio, una cosa? Che fate? No, per fare le nostre proposte per un'Europa diversa. Cioè la notizia è questa, Marine Le Pen sarà con Salvini e pure Marion viene insieme? Marie sicuramente, ma ci saranno anche gli olandesi, gli austriaci, i fiamminghi. Comunque Marine Le Pen a Milano con Salvini a gennaio, questo è normale. I fiamminghi, non so se Parenzo è al corrente che esiste il partito fiammingo, però magari non gli stanno simpatici. No, mi eccita molto il partito fiammingo, hanno vinto per la prima volta nella storia i nazionalisti. No, corsi, ma figuriamoci, se i nazionalisti corsi non sono molto, non vanno molto d'accordo con la signora Marine Le Pen, per nulla. Vabbè, ragazzi. Anzi, in Corsica gli amici corsi hanno stoppato in Corsica, grande patria la Corsica, Corsica libera, via la Corsica della Francia. Quelli di sinistra in Italia che sono ridotti a esultare dimenticandosi delle Leopolde e delle Ubalde se si perde la Le Pen in Francia. Perché le Ubalde? Perché le Ubalde? Esulto per niente. È stato un grande Garbi che ha detto alla Leopolda preferisco l'Ubalda. quello tutti noi preferiamo. Avete fatto un piccolo giro tondo per la situazione della Boschi? Un minuto di silenzio. Ah, no, ecco, però io voglio dire una cosa. No, adesso io vorrei dire una cosa. Perché, no, questa è una cosa semiseria. Tu hai detto in un'intervista, credo al Libero, che. Intanto c'è l'aereo che chiama. Hai detto in un'intervista al Libero. Per Lione, sì. Da Lione verso Strasburgo, verso Bruxelles, quello che è. Ho detto a Libero. Che Renzi e Boschi devono addirittura risarcire con i loro soldi i risparmiatori. Ah sì, ho visto. Ha amministrato la banca. Sì, no, tu hai detto anche Renzi e Boschi. No, Renzi e Boschi che sono direttamente coinvolti nella vicenda, quindi. Papa Boschi sì e Papa Renzi probabilmente. No. Quindi Renzi e Boschi fossero ministri in un paese straniero. Che farebbero? Si sarebbero già dimessi. Sì. Vabbè, che cosa? Si dimostrano per molto meno all'estero. Vabbè, ma scusa, noi non lo sappiamo, magari è responsabile di chissà quali nefandezze, ma la responsabilità della Boschi qual è secondo te? Aspetta che mi stanno dando un bigliettino. Non avete bagaglio. La Lega non abbiamo mai bagaglio. Non so niente di esplosivo nella borsa. Le idee tue sono esplosive, quelle sì, quelle sì. Io sono un portatore di pace, di regole, di ordine. Baige, portatore di baige. Renzi e la Boschi dovrebbero quantomeno chiedere scusa. Ecco, il chiedere scusa sarebbe un passo in avanti. Il fare i fenomeni, il dire che le vittime sono degli sciacalli, questo è veramente squallido. No, loro hanno detto che gli sciacalli sono. Uno sbaglia, chiede scusa, Papa Boschi si ritira, lascia la sua casa e lascia la sua macchina in garanzia per i truffati. No, adesso la macchina in garanzia. La macchina e la casa in garanzia, addirittura per i truffati. Quello era un funzionario. Ma in un paese normale l'amministratore risponde penalmente, civilmente. In Italia invece fanno le leggi. Quello è vero che non possono. No, su questo ha ragione. Che non possono rispondere. C'entra il padre, ha ragione lui. Su questo ho capito che non possono rispondere penalmente. È una vergogna. È una vergogna assoluta che nel decreto, e quella è una vergogna, la copertura nei confronti degli ex amministratori. Però la Boschi, in quanto Boschi, per ora non c'entra. Ha ragione che il padre, in quanto la Boschi fa parte di un governo che ha varato diversi decreti relativi alle banche, anche a quella dove lavorano il papà e il fratello. Ma questo già si sapeva, Qua stanno a rompere le palle a Berlusconi per le danze, per le robe, perché c'ha le televisioni. Mentre allora, diciamo la verità, a parte invertite, adesso la responsabilità diretta della Boschi, cioè il conflitto di interesse vero e proprio, non, per adesso non si vede. Per adesso ci sono alcune cose. Ma voi vi immaginate se al posto della Boschi sì, quello è vero. Un ministro della Lega o di centrodestra, sì, banchiere della banca rovinata. D'accordo, ma dov'è il conflitto di interesse? Sarebbe successo però, qualsiasi cosa, a te ti avrebbero impiccato, credo. Cioè, ma credo... ci sarebbero i girotondi, le marce, la CGIL, i centri sociali, i pacifisti, se non ora quando, il popolo viola. Il popolo Lilla, ma dove sono questi? Dove sono gli indignati in servizio permanente effettivo? Ho rispettato Saviano, con cui non vado quasi mai d'accordo, che però ha avuto coraggio di dire qualcosa. Ci ha avuto le palle Saviano, dici? D'altronde cosa ci devo fare? Se... No, è perché siamo se qualcuno qui... dice qualcosa che condivido, io glielo rimarco e lo ringrazio pure. Uno di noi, cioè Saviano, uno di noi. Saviano querela per diffamazione. No, penso che essere avvicinato alla Lega sia per lui la cosa più orribile che possa succedere. Sì, mi sta guardando male. Io non ho capito chi ti sta guardando male. Sarà un socialista, socialista francese. Sarà un socialista, uno del blocco nazionale, uno di quelli che hanno fatto blocco contro Le Pen. Il mio fruttivendolo la settimana prossima vuole dire una cosa a Salvini, perché è egiziano il mio fruttivendolo. E che vuole? Mi ha detto i sembri a sgoldo Radio 24 col Salvini dice parole di odio contro Islam. Voglio dire che gli diamo questa frutta che ha vitamina F. Sai cos'è vitamina F? Ma che c'entra la vitamina F? No, vuole parlare con Sabina. Settimana prossima bisogna che mettiamo in collegamento. Va bene, tu dagli il cellulare, ce l'hai. A proposito, sì. fagli chiamare anche quel preside di quella scuola materna di Castelfranco Emilia in provincia di Modena, dove quest'anno non c'è Gesù Bambino. Oddio, questo Gesù, non ne posso più. Non ne posso I più. Questo Gesù. L'hai fatto il remaggio alla fine? Hai visto la foto non con il remaggio? Non si può ancora questa storia. Sì, l'ho fatto. Ma la cosa incredibile è che qualcuno ha avuto da polemizzare anche su quello. Salvini sputtanato, guardate come si è conciato. Vabbè, la gente scrive nella recita di Natale di mia figlia. Ma che ti stupisci? Hanno dai. Dei problemi grandi, hanno dei problemi di, ma hanno problemi di vita quotidiana. Alcuni di sinistra. A tua figlia era contenta? Era al settimo cielo. E poi vedere 200 bimbi che cantano e sorridono è una cosa che. Però le foto forse non dovevano uscire. Cioè, che male ragazzi, ci sono 400 mamme, cosa facevo? Le foto, secondo me, queste cose devono restare così. Ma però certo ma che male c'è? No, su questo. No, ma magari non è colpa sua. Non c'erano telecamere, fotografi, però le mamme, i papà e i nonni erano liberi. Io non ho capito una cosa: perché il papà della Boschi dovrebbe mettere come pegno la casa dovrebbe e... risponderne dovrebbe Vabbè, avere ma... i beni bloccati i suoi beni bloccati i beni della famiglia Boschi bloccati della famiglia Boschi dovrebbero essere bloccati tenuti sotto sequestro in garanzia ad esempio di quella vedova ma lo so l'abbiamo anche sentito la vedova. Fano di Renzi parla di sciacalli che si approfittano dei morti, ma vanno a dire alla vedova del pensionato che si è suicidato, cioè secondo te c'è un legame diretto tra la morte del pensionato e Renzi? Dilla chiaramente, dillo chiaramente. Sì. La morte del pensionato e la scelta del governo, e quindi Renzi, sicuramente sì. Cioè, ovvio, tu dici che Renzi è responsabile della morte del pensionato? Beh, l'ha scritto lui. si è suicidato perché ha perso tutto per colpa di un decreto. Cioè, è colpa di Renzi, vabbè. No, per carità. Sì, io ho scritto che è un suicidio di Stato, l'ho scritto fino no, a. No, ma era colpa di Renzi, ha detto. Vabbè. Sì, ce l'ha sulla coscienza Renzi. Ce l'ha. Beh, mi pare veramente. Sarebbe come dire che le banche padane lì fallite, Credi Euronord, quelle sì erano sulla coscienza della Lega e di chi le fece. Lì i soldi ce Credi Euronord. Ma no, non qui il governo adesso. Messi noi ma te credo. Tanta ma gente ce l'ha messi, eh. Ma che differenza? Allora, ma scusa, come fai a dire? Noi, Renzi avrà mille colpe. Ma come fai a dire che quel morto pesa sulla coscienza di Renzi? Cioè, che c'entra? Cosa potevano fare di diverso? No, è stato un decreto folle. Figlio di diverso, una cosa potevano fare? A me, ma può anche non piacere folle, Renzi. Ma... figlio di una direttiva europea folle, per cui dal 1 gennaio ci andranno di mezzo anche correntisti e obbligazionisti puri. Questo lo sanno gli ascoltatori? Verifichino il loro conto corrente, verifichino la partita sopra i 100.000 euro, sopra i 100.000 senti, euro. Senti, Matteo, una cosa, ma ti voglio chiedere invece... Tu quanti soldi hai sul conto, scusa? Io? Tanti. No, chiedevo Salvini. So. No, meno di 100.000 euro, ma chi me li garantisce quel meno di 100.000 euro? Cioè, quanto hai sul conto tu? Avrà 50.000. No, sul conto in questo momento, sul conto della mia tuo, banca. Personale, no, personale tuo. Dovrò avere 30-35.000 euro, una roba del genere. E hai, qualche... hai obbligazioni? Quelli. Hai obbligazioni? Sai che non lo so. Azioni, questo come chiamo, fai? Chiamo domani il mio amico di Banca Generale, glielo chiedo, perché io quando firmo come 9 italiani su 10 colpevolmente mi fido. Oh, ma almeno l'esistenza, ma almeno l'esistenza di obbligazioni e azioni dovresti saperlo. No, azioni esiste. Ti hai detto di no, azioni non lo sa. No, azioni no. No, sicuramente. Qualche obbligazione? Obbligazione può essere. Cioè titoli di Stato, cose di questo tipo? No, titoli di Stato no, mi rifiuto, però obbligazioni può essere. Perché titoli di Stato ti rifiuti? Perché non era un paese. Ma per finanziare il debito pubblico di uno Stato che non uscirà mai dalla crisi se non cambia completamente politica, io non ne sottoscrivo. Non hai mai sottoscritti? Suggerimento del signor Borghi questo. Sì, adesso no. Senti una cosa, ma hai saputo di quel caso di cronaca di quella dei 5 Stelle che ha attaccato la sì. Quella tunisino, no? Cioè Tunisia sì, attaccato una roba tunisino. Folle, dicendo che la donna se l'è andata a cercare. Sì, sì, esatto. Sì, perché si è messa col tunisino di 27 anni. Beh, ma fortunatamente non tutti i tunisini di 27 anni picchiano le compagne, altrimenti saremmo messi male. Pure questo. Ha detto una cazzata. Senti, invece che facciamo con Mihajlovic? Lo cacciamo? Il Milan? No, io guardo la società, io ho detto che secondo me va cacciato è Galliani che ha fatto tanto, ma ha fatto il suo tempo. Per cui va cacciato Galliani? Va cacciato, non sono io il presidente, i soldi ce li mette Berlusconi. Ma Berlusconi che pensa di Galliani? Perché qua continua a cambiare allenatori, continua a cambiare giocatori, però no, non ne azzecca una Galliani. Cioè è ora che vada via, tu dici. Ma scusa, no? Barbarella deciderà. Secondo me ha fatto tantissimo, da milanista gli sono debitore, gli sono riconoscente, ma come tutti nella storia ha fatto il suo tempo. E dunque, ma Berlusconi che pensa di Galliani? Tu che sei vicino a Berlusconi? Cioè è il boss del non Milan, lo so, non è che non gliene parlerò domani, ma se ne vuole di Galliani. No, ma se ne vuole disfare, vuole andare via? No, o... Sicuramente Berlusconi che quest'anno ci ha messo 90 milioni, quindi io da tifoso non posso neanche dire il presidente non tira fuori una lira. Sì. È chiaro che se spendi 90 milioni per comprare la gente sbagliata, chi fa la campagna acquisti la fa Galliani. Grazie Galliani per dunque quello che hai fatto negli scorsi 20 anni. Arrivederci. Ma sarà incazzato, no? O no? Beh, da tifoso penso che sia oltre che incazzato. Io sono incazzato, ma non ci metto una lira. Lui è incazzato e ci ha messo 90 milioni. Sì, però prendersela con gli arbitri come ha fatto il signor Mihajlovic. No, quello no. C'entra se niente. Uno in casa col Verona non esiste arbitro che tenga. Hai fatto schifo, punto. Poi a me Mihajlovic come allenatore piace, però se comincia a fare il piangina prendendosela con gli arbitri, non ci siamo proprio. Ciao, presto. Ciao. Saluti. Ciao. Saluti. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. Andiamo, Davide Rimini, vai, Davide. Buonasera Crociani, allora io volevo parlare di quella... Oh, intanto è uscito, scusami un attimo Davide, è uscito dalla galera Cuffaro nel weekend, caro Parenzo. Vuole già fare politica? No, dice di no, ha detto di vorrebbe no. Vorrebbe tornare a fare politica. Ma quando mai? Non hai capito avevo niente. Letto, no, io avevo letto invece ma quando? Ma assolutamente no, ma vedi non leggi nulla bene, c'è una bellissima ricostruzione su Repubblica. Ma il signor Cuffaro, che ha scontato 4 anni e 11 mesi, meno della sentenza che era di 7 anni, meno della pena che era di 7 anni, ma comunque è stato in galera 4 4 anni, 11 mesi, dice che vuole andare, mi fa impazzire questa cosa, voglio andare a fare il medico volontario a gratis in Africa, in Burundi. Ora io voglio, ne voglio vedere uno, però prima o poi, ti giuro, ne voglio vedere uno, voglio vedere uno col camice bianco, preso dalla malaria, massa, perché poi quando vai a fare il medico in quelle condizioni ti prendi la malaria. Adesso, siccome no, c'è stata nel tempo, non ricordiamo il caso di Beltroni, un'epidemia di persone, di politici che hanno detto voglio andare in Africa, basta con la politica, io prima o poi ne voglio vedere uno. Io ho grande rispetto del suo Cuffaro, per carità, cioè se lo vuole fare lo fa, però lo faccia. Certe cose non è che si annunciano, vado in Africa a fare il medico in Burundi, uno lo deve fare, perché abbiamo troppi esempi nel passato che non sono andati come, no, come avevano proclamato. Davide, vai. Volevo parlare in merito a quella persona del 5 Stelle che ha scritto quel post, no? Che sì, io sono d'accordo con lei, Crociani, in tutto, però mi sembra molto, diciamo magari sotto forma diversa, anche quello che dice lei, quelli che muove nel Mediterraneo se lo cercano. No, però sono cose diverse, ragazzi. Io ho detto chi si mette in viaggio, chi si mette consapevolmente in viaggio, una volta dissi quando c'erano le questioni che riguardano chi si mette consapevolmente in viaggio sapendo dei rischi che si corrono perché ci sono già altri morti, eccetera, eccetera. Io non dico che la signora, cioè quando uno si mette a una relazione d'amore con un tizio tunisino di 27 anni, adesso io non so bene i dettagli, che tipo di problemi avesse questo signore qua, però non è che ti puoi aspettare che questo qua ti ammazzi, è una cosa un po' diversa. Mentre se tu ti metti in una barca, sto seguendo il tuo esempio, in un barcone con altre, che ne so, 500 persone, sai che sono morte altre persone facendo questo trasbordo, sai benissimo che puoi correre il rischio, ti assumi il rischio della morte tua e magari dei tuoi figli piccoli. Sono due cose un po' diverse, Davide, o no? Sì, magari c'è un tasso di rischio un po' diverso, però in un certo senso è connesso il rischio, secondo me. Ma dov'è connesso? Sono due cose completamente diverse. Ma può essere una discussione seria questa, sì, qua? Ma qui non c'è discussione. Ma non è serio, non è serio, non è serio, ma normale. Cioè c'è da discutere. Oh, la realtà è molto semplice, Davide, è che ci sono molte persone che condividono quello che ha scritto questa signora di Civitavecchia. La signora di Civitavecchia dice questa qua, sì, ma però bisogna fare i conti con questa cosa. Il 90% delle persone, non lo so, con lo schifo, il 90% delle persone, anche su Facebook, su Twitter, su email, ma non è vero che è una cloaca, falla finita. La maggior parte di queste persone dicono se questa qua si è messa con un tunisino di 27 anni, tossicodipendente, irregolare, e poi è morta perché questo l'ha ammazzata, alla fine se l'è cercata. Questo dice la gente. Io non lo condivido, te lo dico subito. Dice la gente, al contrario di quello che tu puoi immaginare, io non lo condivido. Ma ti crede, non è una cosa talmente fuori di testa. Giuseppe da Bari, dai. Vai. Buonasera. Dimmi, Giuseppe. Mi tolgo soltanto 10 secondi, vi faccio anzitutto i complimenti per la trasmissione. Vabbè, di questo non ce ne può fregare di meno, poi? Beh, benissimo, soprattutto a Parenzo e non invece a te. Vabbè, questo me ne farò una ragione. Grazie, Giuseppe, grazie. Secondo me sei bravissimo, ma lo puoi essere di più se elimini un po' di parolacce. Io sono me stesso anche in queste cose, se ti va bene è così. A me questa è una stronzata, io non sono, lo sai, a parte che io non ho... Ma mi dispiace tanto, guarda, prima ti ascoltavo Giuseppe, molto di più. Pazienza. Ora meno, perché pazienza, prima forse ero troppo artefatto e costruito. Io voglio essere me stesso, sempre e comunque, anche in queste cose qua. Guarda, la parolaccia ci sta bene. Ma forse non hai capito che non è una cosa costruita. È così, è la vita. Ma una mia sensazione che qualche volta. Vabbè, ma io per carità io la rispetto. Una non c'è, forza ma io, una io, forza ti, io rispetto te e rispetto quelli certo, che sono schifati ma da questa cosa. Ti ho fatto anche i complimenti. Ti rispetto, ti abbraccio. Voglio che tu stai sempre con me. Se tu non vorrai stare con me perché pensi di essere. No, io con i maschi non ci sto. Ma no, con i maschi. Con il tuo amico, anche se comunista. Perché sei omofobo pure tu. Che è comunista. A proposito, Parenzo, ma hai saputo quella storia incredibile a proposito di misericordia nella Chiesa? Giuseppe, ascolta questa storia anche tu. A proposito del giubileo della misericordia, in provincia di Verona, in un piccolo paese in provincia di Verona, che cosa succede? Succede che c'è un prete, c'è uno zio e c'è un nipote. Il nipote vuole fare la cresima, ha bisogno di un padrino. Chiaro? Tutto chiaro fino adesso, no? Sì. Il giubileo della misericordia. Liscio però. Liscio, no? Il nipote, caro Giuseppe, dice al parroco che c'è lo zio che farà il padrino. Lo zio però è omosessuale, è gay, e il parroco allora, sempre il giubileo della misericordia, dice che non si può. Ecco, ma immaginavo dice che non si può. Ma posso dirti, ma scusa però, scusami. Cioè dai ragione al prete? Il giubileo della misericordia? Il giubileo della misericordia? Ma adesso, ma sai perché ha ragione? Il giubileo della misericordia? È come se tu vai a casa di un islamico e gli dicessi: scusami, ti ho portato del maiale. Ma guarda che sei incredibile. Ma che gliene frega al prete? Guarda, che gliene frega al prete se lo zio che fa il testimone omosessuale, capito, gay, ma come io ebreo non posso andare a fare il testimone? Ma io ebreo non posso andare a fare il testimone religioso? Ti giuro, la prossima volta che mia figlia mi chiede, sposi in chiesa. La prossima volta che, quando mia figlia farà la cresima, porto come accanto a me in chiesa Febal col pisello di fuori. Non ti giuro, ti che giuro, la faranno entrare. Ti giuro, col pisello di fuori sarebbe una volgarità e un'esagerazione. Quello è vero, quello è vero. No, quello è vero. Però porto un transessuale, faccio entrare un transessuale. Ma mettiamo che tu l'ipotesi che tu ti risposi, no? Un'ipotesi paradossale, assurda, impossibile. È per questo praticamente impossibile. Pochissima possibilità. Cruciani, mi dice: caro David, vuoi venire a fare il testimone religioso mio in chiesa? Religioso in chiesa? Ma ti pare che io mi sposerò di nuovo in chiesa? Già ho fatto una cazzata una volta. Appunto, paradosso assoluto. E David ti dice: guarda, caro Giuseppino, mi dispiace, grazie dell'invito, ti farò un piccolo regalo, magari ti regalerò 20 euro. Sì, così dobbiamo chiudere, c'è la pubblicità. E il prete dice di no, perché dice: guarda, Parenzo ebreo non può fare ma il testimone religioso in chiesa. Ma che gliene frega il prete? Ma figuriamoci! Fermo. La Zanzara. When you've done all your running, run to me. Parenzo, come ti fai leone con quelli dei 5 Stelle, eh? Ci fosse stata la Sant'Anché saresti stato bello a cuccia a dirgli che è un bel vestito. Comunque siete due teste di minchia, la delegata vi ha sputtanato. La morte ora rinime tutti, a voi due merda che non ve ne fate un cazzo neanche se muore vostra sorella. Due cessi. Ma quale trentenne ci va con Rosanna Lau? È un cesso, ma chi ci va con quella? Cioè, ma fa schifo. La cosiddetta gente, caro Parenzo, la cosiddetta gente che ti fa schifo. Allora andiamo a Roma, vai Enzo, vai. Ciao ragazzi, dimmi. Io sono incazzato nero. Perché? Perché non si dà un minimo di rilievo a un episodio terrificante come quello della Boschi, che non era il primo, è il secondo. Quando è stato passato il Banco de Turia insieme ad altre, da SPA, cioè da Banca Etria a SPA, il caro padre della Boschi ci ha guadagnato circa 65 milioni. Ora noi abbiamo... No, non ho capito questa cosa, scusi, il padre della Boschi avrebbe guadagnato... Parenzo, l'hai capita tu? Sì. Parenzo, ma c'è o non c'è Parenzo? Non ho capito. Ascolta. È un lecchino, lascialo perdere, è meglio se non si sente. Come ha detto, scusi, non ho capito. Se è un lecchino. Vabbè, dai. Non ho sentito, scusi. È un lecchino. Vabbè, non fa niente, lascia perdere. Sì, allora, io dico, un ministro della Repubblica. Un ministro della Repubblica, sì. Che ha il padre, che è interessato, ovviamente. A che cosa è interessato? Interessato per due volte, non per una, per due volte. Fanno degli imbrogli e degli impicci soliti per guadagnarci. No, però milioni. Scusami, tu stai dicendo adesso, Enzo, stai dicendo un'altra cosa. Stai dicendo che il padre della Boschi ha guadagnato da qualcosa. Ha guadagnato da che cosa? Scusa. C'è questa voce del passaggio voce. Di queste banche. Lei sa. Ma qual passaggio di che? Voce. Di cosa? Non c'è banche, questa, c'è questa di voce che Enzo da Roma sia un cornuto. No, c'è non ha guadagnato nulla. È successa una cosa. Sai, Cruciani, c'è questa voce, sai? Bene, c'è la voce che Enzo da Roma sia un cornuto, c'è questa voce, però non ho detto niente io. C'è ma questa voce. Per favore, Parenzo, io non vorrei parlare. No, ma per te. Favore, c'è questa voce. Qui facciamo giornalismo o facciamo sussurri e flatulenze? No, c'è questa voce. Enzo da Roma è un cornuto. C'è questa voce, però c'è questa voce. C'è questa voce che Enzo da Roma sia un cornuto. Ma la fai per finita? Ma per carità, no, è un cornuto, ma una voce. Allora, un minimo di democrazia. Un minimo di democrazia, c'è questa voce. Enzo da Roma è un cornuto. C'è questa voce poi Madonna, dopo. Che sei, ti stai ma guarda un ma po'. Ma sei sposato, Enzo? Sì, io sì, certo. E vedi, adesso vedi che sta andando a casa a controllare. Un attacco frontale però. C'è questa voce. C'è questa no, voce. No, ma non, non ho capito perché non mi deve fare parlare. Vabbè, Enzo, non ho capito. Ma io non ho capito perché c'è questa allora, qui, è giornalismo o c'è questa voce? Perché non si dimette? Aspetti, non è possibile che noi manteniamo un ministro della Repubblica dopo che ha subito, è stato coinvolto in due scandali così plateali. Ma quali scandali? Non abbiamo. Vabbè, tu sei per le dimissioni della Boschi, questa mi pare evidente. Ma perché c'è questa voce? Ma cavolo, ma anche dello stesso Renzi. Anche dello stesso Renzi. Che altra voce c'è su Renzi invece? No, nessuna voce, perché nessuna voce, non lo sai il fatto che il padre di Renzi anche lui è interessato in questi casini? Non lo sai? Ma sì, che il padre di Renzi, c'è un collegamento una delle tra sue una delle società nelle quali lui figura come uno dei contribuenti, consulenti, degli azionisti, consulenti o quant'altro, ha ricevuto un fito dalla Banca dell'Etruria, certo, sì, questo è vero. Vabbè, però questo è un fatto, non è una voce. Ma lo sappiamo bene come vanno queste cose. Lo sappiamo se non ci fossero queste 150.000 persone che hanno subito una bella botta. Questo è un altro discorso, certo. Vabbè. Se non ci fosse quel povero suicida, ma io me ne fregherei. Però non riesco, non ci riesco a non ribellarmi a queste cose. Però bisogna dire una cosa che ha detto Enzo Parenzo. Hai una parte del nome uguale a quella di Enzo, hai capito? Una parte del tuo cognome, Par Enzo. Però che se non ci fosse stato il suicida, se non ci fosse è cinica come cosa, ma è vera, se non ci fosse stato il suicida, di questa cosa delle banche se ne parlerebbe un po' di meno. Forse un po' di meno, ma posso sommessamente ricordarvi che prima certo che arrivasse... Salvini prima ha detto una cosa tremenda, ha detto che Renzi è colpevole della morte di Luigino, Luigino quello di Civitavecchia, ha detto che è direttamente colpevole, ha detto così, Vabbè, Nicola da Pescara, vai Nicola. Riccardo Torino, vai. Ciao Giuseppe, ciao. Dimmi. Ah, volevo solo un dettaglio tecnico relativo. No, dettagli tecnici qui non se ne danno. Però, No, aspetta. Perché la religione vieta di mangiare certi animali? Semplicemente perché è vietato mangiare gli animali che hanno i canini e quindi sono assassini, mangiano altri animali. Quindi è vietato mangiare il maiale, il cinghiale, l'orso, il leone. E vi ha dato mangiare l'essere umano per lo stesso motivo, perché si nutrono di altri animali, questo è semplicemente. No, non ho capito niente, però scusa, non ho capito. Ma è vietato dalle religioni mangiare gli animali con i canini, non è vietato mangiare il maiale perché è maiale. No. Ok? Ah, quindi, tu dici che è per questo. Parenzo è un grande esperto di queste cose. Ma non vi, non vi intrattengo su questo. No, non ci intrattenere, è meglio, non ci intrattenere. Vabbè, Riccardo, poi. No, semplicemente questo. E vabbè, poi. La penseranno così gli altri di me, però certo che c'è una pletora di telefonate incredibili, cioè veramente... Vabbè, non è la scoperta dell'acqua calda, Riccardo. Sì, infatti. Massimiliano, provincia di Verona, dai. Massimiliano, provincia di Verona, dimmi. Buonasera. Io volevo intervenire in merito a quell'ex deputato dei 5 Stelle che prima... avevate citato per la morte di quella nonna massacrata dal tunisino di 27 anni. Sì. No, mi sembra un po' troppo banale spiegare il comportamento di questa donna con questa attribuzione di essere in qualche maniera affetta da cazzite cronica, nel senso che io credo che prima di arrivare al massacro questa donna forse l'ha presa anche in altre occasioni, però forse rientra nella casistica tipica di quelle relazioni un attimino patologiche che si mescano tra un uomo e una donna dove poi sfociano in queste forme di violenza. No, non ho capito, però non facciamo della filosofia e della sociologia assurda, cioè qual è il punto fondamentale? Questa signora ex 5 Stelle da poche ore in realtà ha scritto, ripeto per l'ennesima volta, una cosa vergognosa, perché innanzitutto non conosce la storia bene, non può sapere la relazione che c'era tra una signora di 40 anni, 42, 43, quanti ne aveva, e questo tunisino di 27 anni, il quale l'ha massacrata, punto e basta, su questa cosa non si discute. Dopodiché se l'è cercata, ha detto questa, ha detto detto che è malata di cazzite cronica. Questa qua era, cioè, sostanzialmente voleva il cazzo del tunisino. Cioè, questo è il no, ma quello è, ma ragazzi. Sì, ma si capisce. Oh, se l'è cercata, l'avrei insultata se fosse rimasta viva, se fosse sopravvissuta. Cioè, prova pena per la figlia, addirittura, eccetera, eccetera. Cioè, in cinque righe è riuscita a dire delle cose tremende su questa morta. Su questa morta. Ora voi mi state chiamando dicendomi che ha ragione lei, che se l'è cercata. Ma come cazzo fate? Me lo potete spiegare come fate? O no? Io non ho detto questo, ho detto sì, anzi... stai dicendo praticamente tu, cioè un sacco di gente mi ha chiamato, fate i moralisti, eccetera. Questa qua è stata ammazzata da questo tunisino. Voi dite. Sì, ma io non ho detto che se l'hai cercato, ho detto che probabilmente la sua relazione con questa persona rientrava in tante altre relazioni che succedono purtroppo a altre donne. È una constatazione la mia, non sto dicendo che se l'hai cercata. Cioè, ci sono anche italiani che picchiano le donne, non c'entra niente. Ma certo, ma questo è chiaro. Quindi, cioè, appunto. No, voglio dire, quindi è stata un'attribuzione, secondo me, banale, disumana, che ha fatto questo esponente. Ah, vabbè, d'accordo, grazie. Giorgio Genova. Sì. Giorgio. Buonasera. Dimmi, ciao. Dimmi, ciao, ciao. Scusa Giorgio. Se ti farò un po' arrabbiare, spero che tu... Ma non ti devi fare... Voi dovete dire quello che pensate, altrimenti se pensate uno... Adesso mi arrabbio, figuriamoci che me ne... Dai, vai, tranquillo. Ascolta, io do perfettamente ragione a quel sacerdote che non accetta un padrino omosessuale. Questo per il semplice motivo che la dottrina cattolica prevede che un padrino abbia dei fondamentali morali di un certo tipo per poter affiancare nella vita il crismando. Ma ragazzi, però, ma di che stiamo parlando? Su, ma uno non può fare l'indagine. Ma perché la Chiesa si deve impicciare delle abitudini sessuali di uno che va a fare il padrino? Scusami, però, ma c'è una logica in questa roba che non condividiamo. E ti dà manforte l'altro religioso qui, qua. Ma quale religioso? Si tratta di capire le cose. Ma tu, quando vai ospite in una moschea, cosa che non hai mai fatto, per educazione ci si toglie le scarpe. Quando vai a visitare una moschea, sono due cose diverse. Come quando vai in una sinagoga ti metti una kippah sulla testa e quando entri in una chiesa ti togli il cappello. Sono due cose molto diverse. Se non accetti quella logica, fai dell'altro, cioè vai al missex, oppure vai dove vai tu, nei bordelli, dove ci sono altre regole di ingaggio. Perché se tu vai in un bordello, ad esempio, in un posto di nudisti e stai vestito, tutti ti guardano e dicono: ma perché stai vestito? Sei veramente ridicolo. Sono due cose completamente diverse. No, l'esempio è uguale. Tu stai dicendo che i gay non possono partecipare. Non possono partecipare a funzioni religiose, certo, praticamente. Che possono partecipare. E non possono fare però i padrini alle cresime dei loro nipoti. Non è, a me non interessa nulla. Ma non se è io la ho uno zio Frocio, se io ho uno zio Frocio, se io ho uno zio Frocio, ma lascia perdere il tuo partito. Ogni volta ripeti sta storiella, non è la mia parrocchia. Ma chi se ne frega? Si tratta di capire qual è la norma, qual è la ma cosa. Ma non c'è che... nessuna norma in realtà, è una pazzia di questo parroco. Ma se tu chiedi a qualunque prete, anche più illuminato, forse solo Don, come si chiama quello che chiamiamo sempre qua? Il prete, Don Fasano, lì come si Farinella, chiama? Che Don Sfasato, quello Don che dice che la Gelmini si deve fare infibulare. Giusto, dai. Don Farinella farebbe fare da madrina anche alla F-Ball. No, solo ma scusami, lascia perdere le persone conosciute. Allora, un prete, che cosa gliene frega un prete se a fare il ma padrino per la Chiesa è un sacramento, a fare il padrino di un ragazzino è un frocio. Ma non potrei me lo devi farlo dire, neppure perché? Io per la Chiesa ma che sono perdere, ebreo, ma non è lascia perdere. Ma se tu lo facessi la Chiesa non se ne accorgerebbe perché non ma gliene frega niente. Ma come no, dico quello non può, sì, ma perché no, sei conosciuto. Ti chiedono di firmare ti chiedono lei rispetta i sacramenti? Ma tu scrivi di sì, che te frega? Ma io non dico di sì proprio per niente, io sono un altro ma non credo che c'è da firmare qualcosa, dai. Vabbè. Giorgio, non capisco perché dai ragione te l'ho appena spiegato, per il semplice motivo che un padrino deve avere tutta una serie di requisiti morali. No, morali, che requisiti morali, ma non sta scritto da nessuna parte. Allora, tu ti devi mettere comunque dalla parte della filosofia. Ma invece il nipote cattolica. Vuole per forza lo zio. Il nipote vuole per forza lo zio Frocio. Come la mettiamo? E purtroppo non potrà avere lo zio Frocio per il semplice motivo che la dottrina cattolica. No, perché non sono accetta. Delle merde, per questo è il punto. Perché alcuni sono delle merde vere e sono delle merde. Ascoltami, ci sono dei fondamentali. La dottrina cattolica. Uno di questi fondamentali qui è che un padrino deve avere delle. Però poi ci sono i preti pedofili, finché esisterà solo un prete pedofilo non devono rompere i coglioni se un bambino vuole lo zio Frocio come padrino della cresima, chiaro? No, non puoi ragionare così, abbi pazienza. Io sono il primo a dire che i preti omosessuali, i preti pedofili devono essere che non c'entrano niente. A calci non c'entra ecco niente. Perché questi sono dei paradossi. però ragazzi, non si dai, può dire perché c'è il prete pedofilo allora un no sto dicendo finché no ma non capisco qual è il problema è semplicemente che questo prete qui ha sbagliato tutto perché ha creato un caso mentre il caso non esisteva si non dà il caso sbagliato. Che questo signore questo zio sia uno che pubblicamente il problema è quello perché se uno se lo tiene nascosto la chiesa non dice nulla se invece tu lo dici pubblicamente come hanno fatto questi due tizi che stanno insieme cioè lo zio e il suo compagno e dunque si sa in un piccolo paese allora è nato il caso capito qual è il punto? La vera vergogna è questa perché se non si fosse saputo nulla pubblicamente la chiesa non è che fa le indagini no non avrebbe saputo siccome si sa perché questi due stanno insieme il padrino Frocio cioè lo zio Frocio non può fare il testimone al il padrino Frocio insomma lo zio Frocio non può fare il padrino alla cresima del capisco, povero nipote non capisci ma non importa no ma non c'è da capire niente su queste cose qua non c'è da capire nulla bisogna essere molto chiari il bambino vuole lo zio la chiesa se ne deve fottere delle preferenze sessuali delle preferenze sessuali dello zio se ne deve fottere delle preferenze sessuali dello zio pubblicità lei che è un incompetente maiale cioè no, non capisci. La Zanzara. Quanto mi sta sul cazzo Parenzo, mamma mia, come mi sta sul cazzo! Un'idea, ma perché a scuola non sostituiamo l'ora di alternativa alla religione con un'ora del meglio della Zanzara? Secondo me è molto più educativo. Ripeto Cruciani, quando un rapinatore va in banca, non va a rapinare una banca, va a rapinare un altro rapinatore. Questo è quello che penso per le banche, dillo a tutti, a tutta l'Italia. Ciao, ciao. Che strano sto paese, il decreto salvabanche, se l'avesse fatto Berlusconi, tutti in piazza a manifestare, conflitto di interessi, sta salvaguardando il suo conto corrente, i suoi soldi, maledetto! Pofarenzi, tutto regolare, Monte dei Paschi di Siena, non si sa più niente. Cruciani, ma che cazzo dici? La Popolare di Vicenza l'ha messo un culo a più d'uno. 18.000 euro ci ha rimesso lei e noi poveri lavoratori ce ne abbiamo rimesse anche di più con la Popolare di Vicenza. Pertanto anche la Popolare di Vicenza lo sta mettendo in culo come l'Etruria, imbecille. Carlo Imperia, vai Carlo, i numeri, 393 per i messaggi WhatsApp, 393-71-71-701, mi raccomando ragazzi, sempre al massimo, sempre al top, vai Carlo. Carlo, dimmi. Ciao Cruciani. Vai. Dai, volevo intervenire per quello che riguarda la questione del tunisino che ha ammazzato quella donna. Secondo me c'è un errore di fondo. Fai bene tu ad incazzarti quando leggi che un esponente politico dice che ha fatto bene una persona ad ammazzare un'altra persona, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Però secondo me bisogna anche mettere in conto che cosa? Quando affronti certe situazioni, cioè? Dei pericoli. No, ma dilla chiara la cosa, però non girare intorno, dai, su, non essere ipocrita, dai. Non è ipocrita, semplicemente che se io decido di andare, che so io, a lavorare in Nigeria devo mettere in conto che magari mi sparano per strada. Se io decido di sposarmi un tunisino, un islamico, devo anche mettere in conto che da quel momento io dovrò vivere secondo certi regimi. No, ma aspetta. Dunque, tu dici, se tu ti metti insieme a un tunisino di 27 anni, allora rischi la morte. Pronto? Sì, no. Io nel momento che mi metto assieme a un tunisino di 27 anni, so che il tunisino non ha lo stesso rispetto di me come donna che avrebbe... Sì, ti voglio far notare, Carlo, che sì, di ammazzamenti all'interno di mura domestiche ne accadono, e parecchi, sì, sicuramente, anche tra italianissimi, non è che ammazzare le donne sia una specialità dei signori tunisini, per carità, no. Poi per, adesso non ho ben presenti i dati, sicuramente in certi mondi islamici eccetera la donna non è trattata bene, quello che sappiamo, per carità, però insomma non è che le donne si ammazzano solo, no? Solo... No, assolutamente no, però io ho una figlia, se mia figlia un giorno mi venisse a dire guarda papà che ho deciso di sposare un tunisino, un algerino, che fai, la cacci da casa? La cacci da casa? No, cercherei di convincerla a non sposarlo, primo. Se non ci riesco, gli devo almeno spiegare a che cosa va incontro. Ma cioè va incontro persone, a tale con una persona... Dire... Ma perché deve dire cose? Certo, ma ragazzi, ma se questo qua non vuole far sposare la figlia a un tunisino, a un nordafricano, saranno pure cazzi suoi, no? Ma le persone non è che sono etichettate, cioè anche ma questo qua, lui pensa che sono troppo diverse, diciamo, le vite. Come tu pensi che, come dire, che tuo figlio o tua figlia si devono sposare con un ebreo? Questo qua pensa che non vuole fare sposare la figlia con un, che preferisce che la figlia non si sposi con un tunisino o con un algerino. Per voi, per me siete tutti matti. Ma io non sono uno che mette etichette, però, perché uno può essere... Ma tu vuoi, ma non, che... è non è questione di etichette, è questione semplicemente di sapere, di fare un passo. Io mi sposo una persona che professa l'Islam, so che da quel momento, se prima fino a 20 anni mi comportavo in un certo modo, so che ci sarà il rischio che non mi potrò più comportare in questo modo. Ed è inutile che poi mi vengano a dire, anche perché io conosco tanti islamici, sì, e so come funziona, è inutile venire a dire ma quello è un islamico moderato, ma guarda come va in giro questo, tanto comporta. Ho capito perfettamente, non cambia niente, perché il giorno dopo incontra due amici in moschea, gli dicono tu che cosa stai combinando, tu non sei un vero credente, e allora ecco che lui improvvisamente si comporterà secondo quelli che sono i dettami, secondo quelli che sono le credenze della sua religione. Va bene. Quindi mia figlia si troverà a un certo punto che dovrà portare il velo, che non dovrà più guardare altri uomini, che non dovrà fare questo, che non dovrà fare quello. Beh, no, diciamo, la gelosia fa parte anche del mondo occidentale, vero? Ciao Carlo. Ragazzi, mentre Cuffaro, lo abbiamo già detto, torna in Sicilia da uomo libero, ma è pronto ad andare in Africa? Mentre Vecchioni nei giorni scorsi ha detto che la Sicilia è un'isola di merda e il governatore Crocetta si è fatto fotografare per tutta risposta su una spiaggia siciliana con il sole di novembre a prendere la tintarella? Beh, c'è un deputato del Partito Democratico, Franco Antonio Genovese, che è stato agli arresti per diverso tempo, che è passato con Forza Italia. Caro Parenzo, è l'isola delle grandi sorprese. Tutto per merito del signor Miccichè, ex braccio destro di Berlusconi, ancora berlusconiano per carità, che l'ha fatto diventato coordinatore della Sicilia, il quale ha portato con sé, pare, anche dei voti. Signor Franco Antonio Genovese, dal PD a Forza Italia. Io una telefonatina alle 20:25, ora italiana, Milano, la Zanzara, gliela farei. Pronto? Buonasera, Genovese, come sta? Buonasera, bene, grazie. Genovese però è di Messina. È di Messina, sì. No, questo giusto per chiarire le coordinate geografiche. Sì. Si chiama Genovese, sì, però è di Messina, era del PD e ora è di Forza Italia. Ecco, questo è. Si potrebbe dire Genovese secondi, che se non hanno problemi giudiziari in Forza Italia non li vogliono. A parte del curriculum, no? Io sono abbastanza attento a questo, quindi mi oriento a seconda del mio curriculum. No, appunto, cioè dipende dal curriculum, sicuramente. Il suo è ben fornito il curriculum suo, però. O no? Potenzialmente, perché a livello di potenzialità. Praticamente oggi Travaglio l'ha dipinta come una sorta di bandito a mano armata. Franz Antonio. Che pensa di Travaglio? È un uomo straordinario, devo dire. Lo stimo molto, davvero, come giornalista, onesto intellettualmente, dice quello che pensa. Ah, addirittura. Sì, lo inviterebbe al pranzo di Natale? Questo mi viene più complicato, onestamente, però anche perché la mia famiglia non sarebbe molto d'accordo. Però, perché non è d'accordo? Io apprezzo le persone intelligenti che dicono quello che pensano, forse la mia famiglia un po' meno. In fin dei conti la pensa come Berlusconi, lei, non è... anche in questo la pensa come Berlusconi. Ha visto che ho fatto la scelta giusta, allora? Ma scusi un attimo, lei è stato a una lunga storia che viene dalla Democrazia Cristiana, la Margherita, esatto. poi il PD, adesso Forza Italia. Passare dal PD a Forza Italia... È bellissimo. Cioè lei si diverte nulla. Come un matto, diciamo la verità. Assolutamente sì, e se no non farei questa vita. E solo, cioè la politica per lei è uno spasso, un divertimento. Un taxi? Non, è il taxi, no, perché il taxi si paga, io non lo pago. Ah, pure. Manco il taxi. No. Gratis, scusi, Genovese, però lei in realtà passa perché l'hanno mandato in galera, perché i suoi ex amici del PD l'hanno mandato in galera. Questo è l'unico motivo, diciamola chiaramente. Sto scherzando, non è l'unico motivo, ma può anche essere un motivo. Ma quando lo mandarono in galera fu per un puro calcolo elettorale, quello di Renzi? Io penso di sì, poi Renzi avrà le sue visioni straordinarie di un mondo assolutamente incantato, però io sono convinto di questo. Cioè che lui l'ha fatto semplicemente perché eravamo alla vigilia delle europee, gli conveniva dare un segnale contro uno, no, brutto, sporco e cattivo come Genovese. Esatto, ma lei la pensa diversamente? No, io in questo caso la penso come lei. Non è un buon motivo questo per passare con Forza Italia? Si ha l'impressione che lei voglia mantenere la poltrona. Per quanto lei sia incazzato, questo. La poltrona è bellissima, vuoi perderla perché sa. Ma di Renzi che pensi? È un bulletto. Un bulletto. Beh, non è simpatico. E Berlusconi invece? Berlusconi è sicuramente una persona straordinariamente intelligente, ma l'ho sempre sostenuto anche quando era all'opposizione sua. Bah, cioè hai sempre sostenuto che era un genio? Che è geniale, sì. Ma tra lui e Renzi c'è un abisso a livello così di persone. Non ne parliamo, sono due facce della stessa medaglia, soltanto che l'originale è straordinariamente intelligente. La copia è ovviamente ammantata di una furbizia enorme. Ma sì. Non ti senti un po' imbarazzato a passare dal PD a Forza Italia? No. O no? Perché? No, per niente. Perché non ti rimetti? E da dove? Dal Parlamento. Molti dicono se uno fa. Qualcuno pensa che se uno fa un passaggio così si dovrebbe dimettere, o no? C'è un vincolo di mandato. Io sono stato eletto alle primarie. No, per carità, poi ti mandano in galera se non esci. Appunto, non scherziamo. Quanto hai fatto? 6 mesi e più un anno di domiciliari. Adesso hai l'obbligo di dimora, giusto? Sì. E chi si muove da qua? Io non mi muovo. Cioè, che significa obbligo di dimora? Che sto qui, nella mia città. Cioè, non puoi uscire da Messina. Esattamente. Ma lei è vero che ha detto voglio restituire al paese quel credito internazionale che gli manca? Ha letto bene, mi è sfuggita questa frase, ma credito internazionale con l'obbligo, con l'obbligo di dimora è un po' complicato. È difficile, amico mio. Riparerò, in effetti è stato un errore clamoroso, me lo rimangio. Ma come te lo rimangi? Come si vive con l'obbligo di dimora, un politico con l'obbligo di dimora? Bellissimo, non puoi andare neanche a Roma a prendere alle sedute del Parlamento? Questa è una cosa, devo dire, triste, questa è la cosa che mi affligge di più. Però prendi lo stipendio lo stesso? Si vive bene, quello sì, in parte sì. Beh no, a parte le sedute e lo stipendio lo prendi, è evidente. Esattamente, sì. E quello che secondo me secondo te è giusto o no? Ma è previsto dal regolamento, è giusto. Vabbè, quello è chiaro che è previsto dal regolamento, altrimenti... Sì. Non ho rinunciato. Non hai rinunciato. Ti servono quei soldi? Ci vivo, certo. Ci vivi. Però è strano che uno con l'obbligo di dimora continui a prendere lo stipendio da deputato. Po' sì, dai. Un po' è strano, adesso per carità, però qualcuno potrebbe dire anche vergognoso, però... No, ma diciamolo, diciamo. Noi non... È vergognoso, io non devo dire che sono qui e mi arriva. Ti arriva lo stipendiuccio a casa? A fine mese. E non rinunci? No, non rinunci. No, per carità. Con l'obbligo di dimora, vabbè, che dobbiamo fare? Esattamente. Lo stipendio arriva regolare? Immagino di sì. Non controlli in banca? Controlla mia moglie, perché è più attenta a queste cose. Insomma, ho delegato tutto a lei adesso, in tutto e per tutto. Va bene, ciao. Un saluto, ciao. Arrivederci. Saluti. Voglio più zanzara e meno pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Sono vero. romanzo italiano. Stupenda, stupenda. Non so se hai letto, Parenzo, che in Corea del Sud i dipendenti coreani, i dipendenti coreani vengono rinchiusi, ovviamente non in tutte le aziende, ma in un bel po' di aziende. Corea del Sud, non del Nord. Del Sud. Vengono rinchiusi nelle bare dai loro datori di lavoro. Questo perché? Non è che sono matti. Sono un po' matti, sì, è vero, quando si tratta di cose di lavoro, no? Di tempi di lavoro, eccetera, eccetera. Sono molto stacanovisti, altro che sindacati. In Corea del Sud sbattono ampiamente i coglioni. C'è una via di mezzo tra... No? Se ne sbattono i coglioni. Allora, perché... qual è il significato di questa cosa qua? Siccome il tasso di suicidi è molto alto, allora loro devono capire, i dipendenti, che vivere è bello. E allora, che cosa fanno i datori di lavoro? Dicono, provate a vedere che cosa significa stare rinchiusi dentro una bara. Poi ci pensate geni, due volte. Siete dei geni assoluti. Geni veri e propri. Sì. Questo non mi va. Io non sono vegano. Mi piace il manzo italiano. Radio Voodoo. Non sono vegano. Me l'hanno mandato apposta, eh. Che capito, è casuale. Tu che tutto il weekend ascolti sta roba, ma sono diventato pazzo. Io non sono vegano, mi piace il manzo italiano, stupenda. Sergio da Roma, vai Sergio. Pronto? Dimmi caro, dimmi. Allora, niente, io sono gay, io ho battezzato due nipoti. Oh, eccolo qua, battezzato due nipoti, non ti hanno detto niente, sì. Naturalmente, no? Non è che ti hanno chiesto la carta d'identità, anzi. Cosa sei, cosa non sei. Ha trovato un prete normale, il quale se ne sbatteva, magari manco fai lo sapeva che eri omosessuale. No, infatti. Adesso lo racconto, no, vai, anzi, Sergio. Volevo raccontare un piccolo aneddoto. Io sono stato nella... Piccolo nanetto, diceva il signor Coso, come si chiama? Il nanetto, come si chiama? Frassica, il nanetto, un piccolo... Non vai, so. Allora niente, in pratica questo prete ovviamente a me non mi conosce perché io non sono praticante, sono andato però a chiedere l'autorizzazione perché ci vuole un'autorizzazione, quindi un certificato di idoneità. Nel farmi delle domande mi ha chiesto, anzi mi ha posto come regola che io non dovevo essere convivente. Assolutamente, non avevo... io ho detto no. Sì, è il motivo per cui praticamente hanno escluso quel signore lì in provincia di Vicenza, perché era convivente con un altro uomo. Questa è la cosa formale che adesso no, ci raccontano. Io non ho detto che ero gay, mi hanno detto che io non dovevo essere convivente con una donna. Sì, ecco. Ma un'altra cosa incredibile. Ma è ovvio poi, che però... Si... Però c'è una cosa, mia sorella con il suo compagno sono attualmente conviventi, quindi i genitori potevano essere conviventi, io no. Sì, vabbè, i genitori però non erano genitori fanno un sacramento. Non erano padrini però, non esatto. Erano padrini, cioè non erano. Anzi, i genitori fanno sì, un sacramento. Sì, però ragazzi, queste robe qui. Vabbè, però di che discutiamo? Scusate, ma avete studiato qualcosa di religione o no? Sì, allora, d'accordo, però il punto è che questi qua trovano la scusa formale che questo qua è convivente con un altro, perché gli dà fastidio che ci sia un omosessuale dichiarato in una piccola città di provincia. Esatto. Un omosessuale dichiarato che fa da padrino al nipote. Questa è la sostanza, giusto Sergio? Sì, certo, sicuro, beh, è ovvio che così, infatti io lo trovo assolutamente una cosa contraddittoria, perché se il nipote in questo caso vuole lo zio come cresimante, perché non lo deve poter fare? No, poi scusa, che cosa succede? Se poi scoprono, se tu dichiari di non essere convivente, è no? Nullo il battesimo. Ma figuriamoci se è nullo il battesimo. Sì, ma quando mai? Ma poi chi ma se ne parezzo, è nullo però, il battesimo, no, e se rifarà il battesimo, pazienza, si rifarà il battesimo. Stai parlando di una cosa di cui a me interessa meno di niente, ma interesserà a chi lo fa fare. No? Se uno vuole farlo cresimare, evidentemente ci crede e quindi rispetterà. Le regole che sono prescritte, Sergio, per fare questo. Il parroco sapeva che tu eri omosessuale? Gay? Quello... Ma cioè, non credo che sia un mistero, ma no, però non me l'ha chiesto, non me l'ha proprio chiesto assolutamente. Né in un caso né nell'altro. In che senso non è un mistero, scusa? No, forse magari può essere evidente, magari che. Cioè, sei un po' effeminato, sono... no? Sono come, no, però sono molto sobrio, io sto tranquillissimo. Ho capito che non si sarà presentato con delle piume di struzzo, questo mi pare evidente. No, assolutamente, non è proprio il mio stile. Però non c'entra questo, il fatto è un altro, è che loro innanzitutto non seguono le regole come le dovrebbero seguire, perché le devono imporre agli altri. E lo stesso vale anche per tutte le altre religioni, non è che io ce l'ho con la Chiesa cattolica. Ma la cosa incredibile è poi un'altra, è quella che ho detto prima, adesso ripensandoci, mi do ragione da solo. Cioè il fatto che loro tollerino al loro interno il fatto che i preti facciano sesso in tutte le salse possibili immaginabili, con le donne, con gli uomini, eccetera, eccetera, per non parlare della pedofilia. Poi c'è un signore che vuole fare il testimone, il padrino ad un bambino che vuole lo zio come te, no, perché sei convivente, sei omosessuale, ma no, vai a fare il culo, dai. È allucinante. Giovanni è dalla provincia di Roma, ciao, grazie. Allora, Sergio, che volete cambiare voi con le vostre regole? Ma non vogliamo cambiare noi, è la Chiesa che è contraddittoria, dai. Giovanni, provincia di Roma, dai. Giuseppe, mi senti? Dimmi. Senti, volevo semplicemente mandare a fanculo Parenzo. Vabbè, per carità, è un'attività abbastanza frequente. Come si chiama questo qui? No, Giovanni, lui l'ebraismo. Adesso che c'entra l'ebraismo, scusa. I cattolicesi, è la stessa pasta. Parenzo difende la stessa pasta degli islamici, dei cattolici e degli ebrei. È la stessa pasta, lui difende la stessa pasta, quindi. Ma non lui difendo, ti spiego come gira, amico suo, come se le regole di queste regioni. Ma qual è l'argomento? Poi ti può piacere o no, nessuno ti obbliga a cresimarti. Ma in difesa della religione. No, ma lo sai qual è il sai però qual è il punto, Davide, difende, no, ma sai qual è il punto, però sai qual è il punto? Stavo spiegandoti la ratio della norma, ma lo sai qual è il punto? Lo sai qual è il punto? È molto semplice. Quel tizio che vuole probabilmente fare la cresima al nipote e Sergio che ci ha chiamato prima sono cattolici. Sono cattolici credenti. Come la metti col fatto che sono anche gay? Ma allora, ma è come la metti? Tema antico. Come la metti? Su credente, non può essere credente. Ma no, uno può essere credente, è pieno di credenti omosessuali. Ma credere in che cosa? Che non esiste nulla. Ma quello nulla. Sono d'accordo con te, che non esiste. Giovanni, la provincia di Roma non esistono. Benissimo. Allora c'è chi crede che non esiste. Sulle natiche è essere gay e essere credente. Cioè, che cavolo di senso ha? Vabbè, amico mio, tu non credi a nulla come me, però è un altro discorso. Ciao. Appunto, ciao, esatto. Ma come dimenticare dalla settimana scorsa? Ce lo siamo perso. Tipi da Zanzara, Savino da Bari. Tipi da Zanzara. Ah, Savino da Bari. Giuseppe. Dimmi, Savino, dimmi. Giuseppe, io ti ho chiamato. Che cazzo hai chiamato a fare? Dai, dimmi. Perché qui ho visto che le banche truffano i soldi alla gente. Vabbè, questo lo abbiamo visto. Voglio dare un consiglio a queste persone che sono state truffate. Dai un consiglio, vai, Savino. Loro non si devono ammazzare. Sì. Devono vedere chi è il responsabile. E poi? I politici. I banchieri e chi per loro, il padre del Renzi, e devono ammazzare loro. Queste bisogna aprire il carcere da Lasinare, dargli i 416 bis e metterli i banchieri generali, tutti dentro. Tu stai dicendo un'altra cosa. Giuseppe, ti voglio bene. Parenzo, non rompere i coglioni, Parenzo! Giuseppe, ti voglio bene, tutti nel calcio dell'Assinari bisogna bene, tutti chi dice? Tutti nel calcio dell'Assinari, anche Crociani, anche Napoletano, nel calcio dell'Assinari, nel calcio dell'Assinari, pure Napoletano, anche con quei titoli mi mette ansia. Tu invece fai i giornalisti, dovevano mandare la cava! Mamma mia, la cava che dovevano mandare! A me una banca mi ha fatto il mutuo, io senza avvocato e senza niente l'ho fatto rinnovare il mutuo. Mamma, sai che gli ho mandato a dire, non faccio nome della banca, gli ho mandato a dire che voi per ammazzare la gente impugnate la pen, io per ammazzare la gente impugno la P38. Ma questo è truffo la gente così. E poi quando la gente deve portare i soldi in banca per la tracciabilità, devo portare sto cazzo in banca. Tipi da Zanzara. Grande Savino, immenso, immenso Savino. Signor Savino da Bari. Savino da Bari. Biagio, provincia di Messina, vai. Vai, concludiamo in bellezza, dai ragazzi, forza. Tu sei la puttana dell'etere. Ma vai, dai, su queste storie, la puttana dell'etere. Che vuol dire la puttana dell'etere, Biagio, dai. No, siccome è detto essere un figlio di puttana, quindi non confermo. Vabbè, dai. Ascolta un attimo, ma perché le telefonate da Messina non si capisce? C'è sempre un audio disturbato. Biagio, dai. No, no, guarda, ce l'ho spento. Vabbè, dai, dimmi. Ascolta un attimo, ma se è vero che Stasi è innocente, sì. Secondo me, visto l'essere l'efferatezza del delitto, minimo si deve prendere 30 anni. Sì, no, ma io sono d'accordo con te. Se hai ammazzato, la tua fidanzata, devi prendere 30 anni. C'è solo lui, poi c'è solo lui indagato, quindi o sei innocente di vecchi 30 anni. Punto uno. Punto due, adesso ti faccio anche il cavolare. La Bosca, se non sbaglio, voglio dire, deve dare anche al Parlamento europeo, visto che, voglio dire, loro ci hanno bacchettato e lei, se non sbaglio, è la vicepresidente. Ma di che? Di vicepresidente di cosa, scusa? Del Parlamento europeo. Ma basta, non voglio parlare più dopo questa cosa. Alessandro da Livorno, dai. Boschi, vicepresidente del Parlamento europeo. Non ha più senso niente. Niente ha più senso, dai. Alessandro Livorno, dai. Pronto. Era partito pure bene il viaggio, poi è caduto. Almeno i fondamentali. Almeno quello, dai, su. Alessandro Livorno, vai. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Io voglio intervenire a favore dei mangiatori di cinghiale. Io sono un mangiatore di cinghiale. Cinghiale buonissimo, tra l'altro. Buonissimo il cinghiale. Mangiatelo, ma nessuno vi impedisce di mangiare. No, buonissimo. No, ma sono anche incazzato con i vegani. Vabbè, perché... quello mi pare, come dire. No, ma ti spiego. Ma per una semplice ragione. Trovo una barbarie come tagliano l'insalata. Cioè? Come... Perché? Perché l'insalata ha lo stesso diritto dell'animale di essere trattata bene, il ravanello, la zucchina. Sì, è vero, c'è della barbarie nel taglio dell'insalata, nel ravanello. Quando guardi Masterchef, quelle trasmissioni, e vedi come trattano la patata, sì. La sbucciano al volo, ma trattiamola bene la patata. E mangiamo il cinghiale e mangiamo. Alessandro, io ti dico anche un'altra cosa, aggiungo altro. Se questi qua avessero le palle, se sul serio avessero le palle, questi nazi vegani, come li ho ribattezzati io, il termine si è anche diffuso via etere, non solo via etere, questi signori nazi vegani dovrebbero far chiudere tutte le trasmissioni e far rimanere senza soldi quelli che le fanno. Cioè, se avessero le palle sul serio, se fossero coerenti, dovrebbero bloccare tutte le trasmissioni che ci sono in giro per l'Italia, in tutte le televisioni che riguardano, e lo so, e sai perché ne parlo, Parenzo, cosa faremo tra qualche giorno, vero? Non l'avevo collegato immediatamente. Vabbè, Alessandro, ciao. Cosa Nicola Pescara. Tu? Vabbè, lo dirò. Non so cosa cucinerò. Tentato dal cucinare una cosa, sai. Nicola. Ehi, lo sai perché siamo un paese di Nicola merda? Dabba. Dalla vicenda delle banche, te lo dico velocissimo. Allora, noi abbiamo messo alla gogna per 10 anni Vanna Marchi e la figlia, pure il donascimento, per 4 chicchi di sale del cazzo. E questi lestofanti che truffano, vero, ma attenzione, vero, il grave non è il fatto di aver venduto obbligazioni farlocche, il grave è che sono dei falliti loro, perché gestiscono centinaia di milioni di euro senza sapere quello che fanno, sono degli inetti. Cioè, aspetta, tu stai dicendo, noi abbiamo ingabbiato la Vanna Marchi, la figlia del Nascimento, no, perché è scappato in Brasile. Vabbè, era una battuta. Ma lo so. Rispetto a questi lestofanti, sono Santa Maria Goretti e Maria Teresa di Calcutta. Invece noi li proteggiamo con il decreto. Noi proteggiamo queste eccellenze italiane, dirigenti di banca, non capiscono un cazzo. Ma quando è che li pignoriamo le case, li mandiamo protestati per 5 anni? Non dimenticate che questi qui sono... dei falliti, nel senso che hanno fallito la loro missione, la loro banca è fallita. Cioè, tu che faresti ai dirigenti della Banca Etruria, questi qua? Che faresti a questi qua? Te lo dico subito: se Parenzo, il buon Parenzo con partita IVA, per caso non ottempera il mutuo e mette un assegno e non lo copre, gli protestano, lo protestano. E gli pignorano anche il culo chiacchierato. Gli pignorano a questi signori, lo fanno in famiglia tua, però, certo, è vero. È una battuta, dai, questi cialtroni delle banche gli devono pignorare la casa, la macchina, gli devono togliere il carnet degli assegni. Tu adesso per però quando tu hai ragione, quando torni a casa però fai una telefonata per dire che stai tornando, Nicola, Ma perché? Dopo tutto sto discorso che hai fatto sulle banche, giustissimo, che io condivido. Ora 20:51, chiama a casa. cioè, prima di tornare a casa tua per mandarti a fanculo. Sono Nicola, amore, butta la pasta. La sentirai un po' indaffarata tua moglie, però tranquillo, telefona prima, telefona prima di tornare a casa, non suonare all'improvviso. Perché non lo fai con le banche? Ciao, quando diventare isterico con le signore Marchi, perché non lo fai con le banche? Però non è sbagliato quello che dice Nicola. No, dovresti incazzarti con le banche come ti sei incazzato con le Marchi. Vergognati. Infatti, ha ragione Nicola. Io però gli consiglio di telefonare. Ma perché deve telefonare a casa? Stai dicendo che sua moglie sta mettendo le corna. Scusa. No, io consiglio di telefonare sempre. Ragazzi, 10 minuti prima. 10 minuti prima. Dai, ciao. Questo è spettacolo. Show must go. Senti, io chiuderei qui, ma vattene a fanculo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.